Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, poi il nostro appuntamento con RadioTube dalle 17 alle 18. Io vi tengo compagnia, anche voi tenetemi compagnia, ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci, l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter chiocciola Marta Cagnola, l'hashtag sempre per chiusa, Twitter cancelletto ISDV come il sabato del villaggio. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Incontriamo una leggenda, Ted Neely, il leggendario Gesù di Jesus Christ Superstar. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di fotografie. Tanto tanto cinema, tutte le novità nel weekend, ma subito la grande musica che ci terrà compagnia quest'estate e un ospite che amiamo tutti. Suona in lontananza un allarme che poi si sa che non serve a niente, tanto nessuno controllerà. Serve ad azzerare ogni mia probabilità di prendere sonno in questa notte che mi stritola. E finalmente è con noi, io non è che lo aspettavo da quando è uscito il primo singolo, non è che lo aspettavo da quando è uscito il secondo singolo, ma lo aspettavo da sempre, lo aspettavo da quando sapevo che avrebbe fatto qualcosa di nuovo. Buongiorno Max Pezzali. Buongiorno e grazie, insomma, troppo gentile. No, no, beh, io fan spropositata da sempre. Album nuovo, l'Astronave, sì. Max, subito parliamo del titolo perché, sì, perché è bello, perché arrivi sulla Terra guardandoci da lontano. Sì, un po' sì, diciamo che è molto evocativo. Poi c'è questo pezzo nell'album che si intitola L'Astronave Madre, che parla comunque, no, del mondo dei centri commerciali intorno alla tangenziale, diciamo così, e intorno alle tangenziali di tutta Italia. E però era bella questa idea dell'astronave, un po' io sono un grande appassionato di esplorazione spaziale, quindi insomma mi piace tantissimo questa idea dell'uscire dalla contingenza degli affari terrestri e guardare tutto un po' dall'esterno in giusta prospettiva, no? Che credo che sia il significato dell'età. Diventare vecchi obbliga ad allontanare le cose per leggerle, no? Cioè, non dirmelo che comincia ad avere quella sensazione lì, spero che sia solo una sensazione. La presbiopia ci obbliga ad allontanare le cose e quindi le devi vedere per forza nella giusta prospettiva, non puoi più essere troppo coinvolto ed essere troppo all'interno di esse, le devi mettere un po' nella giusta prospettiva e quindi era bello questo titolo, ecco. Hai citato i centri commerciali, il sabato spesso la gente va nei, sì, centri commerciali, è uno dei giorni tipici dello shopping, sì. Io dico sempre che la mia trasmissione è la più ascoltata tra quelle di Radio 24 nei parcheggi dei centri commerciali, quando uno gira per trovare posto. Esatto. Tanto criticati, tu sei il primo ad averne scritto non in termini di orrore, no, raccapriccio. Allora, io credo che l'indignazione per i centri commerciali sia un po' in qualche modo un atteggiamento ipocrita, no? Da parte di chi guarda ai centri commerciali come il male assoluto che ha annientato il piccolo commercio, queste cose qua. Non è così. I centri commerciali nascono, almeno in Italia, in seguito, credo, a delle evoluzioni molto precise anche delle città. Quando ero piccolo io, in una città come Pavia, il centro era popolare, il centro storico era fatto di case di ringhiera, era popolare e quindi c'era la piccola bottega, il piccolo negozio. Poi la gentrificazione, no? Sono aumentati i valori immobiliari, c'è stata una speculazione, hanno ristrutturato tutto ed è diventato il centro storico, il luogo dell'elite. E quindi le persone dei ceti meno abbienti sono spostati verso le periferie, verso i quartieri, dall'edilizia popolare in poi, ma anche verso i quartieri periferici in generale. Di conseguenza il commercio normale è naturale che vada a posizionarsi verso l'esterno. Poi sicuramente il centro commerciale è il non luogo per eccellenza, è qualcosa che non ha nulla a che vedere col territorio che lo ospita, in questo senso è un'astronave, no? Monoliti luminosi e pieni di insomma che assomigliano un po' alle astronavi della colonna che in Blade Runner, no? Venivi anche tu nelle colonie extramondo, no? Off-world colonies. E quindi è un aspetto del nostro tempo. Io tendo sempre a osservare senza giudicare, cioè io sono un osservatore e poi le conclusioni le deve trarre chi poi rielabora, no, le canzoni. Io non è mio compito dare un giudizio su cosa sia giusto o cosa sia sbagliato nell'evoluzione del nostro tempo. È innegabile che il centro commerciale sia un pezzo del nostro tempo. La tua lucidità nel guardare le cose senza scomodare le teorie sull'io narrante, perché poi qualcuno dirà è ovvio che non è tutta autobiografia, però certo. Se guardiamo i testi delle tue canzoni è un po' come se tu avessi scritto un nuovo capitolo della tua autobiografia, sì, e anche però della storia dell'Italia degli ultimi 20 e qualcosa anni. Ma io credo di partire sempre dalla mia esperienza personale, che spesso non è così raccontata in maniera didascalica e precisa in una canzone, perché sennò diventerebbe veramente un diario, uno sterile diario, ma poi tu le canzoni le fai per metterti in comunicazione con gli altri, quindi alcune cose le devi necessariamente mediare perché in modo tale che siano comuni all'esperienza altrui, ecco, non puoi essere troppo specifico, almeno per quello che faccio io. Però io cerco di osservare quello che mi accade in giro, quello che mi accade intorno, quello che accade nei pochi centimetri quadrati che mi circondano, e questo credo che sia poi rivedendo, riascoltando certe mie canzoni a distanza appunto di 20 anni, ritrovo il tempo in cui le ho scritte, ritrovo l'atmosfera che si respirava quando le ho scritte, quindi in qualche modo è un modo per chi fa il mio mestiere di fissare come con un'istantanea il proprio tempo e la propria vita in quel momento, no? E quindi quando poi rivedi è come rivedere un album di fotografie. O come un romanzo, che mi stupisco tu non abbia ancora scritto. L'anno prossimo sono 25 anni da hanno ucciso l'uomo ragno, dal primo Castrocaro in realtà. Sì, dal primo Castrocaro. Poi in realtà, sai, il discorso è che ognuno trova il proprio linguaggio ideale, no? Per esprimersi. A me piace proprio l'idea della forma canzone, io mi diverto solo a fare queste, perché la canzone in sé è una gabbia narrativa molto, molto rigida, nonostante tutti pensino, ed è vero, che siano solo canzonette, no? L'ho già sentita, eh. No, le canzonette sono canzonette, sono solo canzonette, ma più tu hai una gabbia rigida e più devi ingegnarti per riuscire a scriverci qualcosa dentro, no? È un po' come il discorso degli haiku, no? I mini componimenti giapponesi, per cui con un numero dato di sillabe devi riuscire a significare qualcosa. Sai, se hai davanti un foglio bianco, spesso puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma non lo riempirai mai quel foglio bianco, perché di fronte alle 10.000 possibilità non ne farai nemmeno una. Quando hai alcune caselle con delle sillabe, con una durata di 3 minuti, 3 minuti e mezzo, 4 minuti, con il ritornello, ecco, con alcuni obbligati, devi per forza ingegnarti a farci stare le cose. Un po' come quando, tornando al centro commerciale, quando arrivi e non c'è nessuno, ci metti più tempo a parcheggiare che quando, perché di fronte a 2.000 posti liberi fai 2.000 ragionamenti, no? Allora questo è più vicino all'ingresso viola, quell'altro poi se esco col carrello è più facile, qui però sono più vicino alla portiera della macchina di lì. Quando ce n'è uno solo, per forza entri lì e basta, hai parcheggiato, no? Cioè troppe opzioni equivalgono a nessuna opzione. Mi viene in mente anche la misura dei 140 caratteri del tweet. Sì. Tu sei un early adopter di qualsiasi tecnologia, hai presentato il nuovo singolo su Periscope, li ha fatti Claudio Cecchetti, sì, i backstage su Periscope, sì, del video, io ero lì come una pazza a guardarmeli tutti, ogni tanto perdevo la connessione, però

perché proprio perché l'evoluzione va solo in una direzione, non è reversibile, no? E quindi qualsiasi cosa succeda, di ah, però come mangiamo male oggi con i fast food, sì, ma la vita media è più lunga rispetto a 20-30 anni fa, quando si mangiava così meglio, però l'inquinamento, sì, però, cioè, quindi voglio dire, sono sempre convinto che è avanti che bisogna guardare, mai indietro, perché la storia è importante per comprendere il nostro presente, per avere coscienza di sé, ma la nostalgia di tempi che non ci sono più è spesso una basata su delle bugie, e spesso è basata sulla paura di diventare vecchi. Il sabato del villaggio. Però ci ritroviamo adesso tra poco, perché è il momento di dare la linea alla viabilità e poi saremo ancora insieme. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con il sabato del villaggio, ma soprattutto con Max Pezzali. Beh, il sabato del villaggio, ma facciamo finta che sia anche un po' venerdì. Dormo nell'altra macchina, una faccia che già ho capito non mi farà passare, che piuttosto preferisce morire che concedere un centimetro a me. Quattro gocce ed è sempre così, siamo bloccati qui a guardare le lancette girare, per non diventare matti sognare. Sono anche sono curiosa di sapere cosa ne pensi di questo ritorno di quest'anno degli anni 90, perché tra 1992 su Sky, un sacco di speciali, da un'idea di Stefano Accorsi, peraltro hashtag da un'idea di Stefano Accorsi. Tu da 24 anni ci sei sempre stato, e quindi hai vissuto i cambiamenti in maniera naturale, invece ci sono personaggi che sono tornati grazie a questo revival, anche sonorità. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che alla fine gli anni 90 siano e continuino a essere in realtà il primo decennio del ventunesimo secolo, per certi versi, perché il grande cambiamento epocale che oggi è in qualche modo ormai consolidato, quindi penso a internet, alla rivoluzione portata da internet, alla rivoluzione in generale del costume che c'è stata in questo millennio, in realtà è tutto partito un po' dagli anni 90. Cioè gli anni 90 sono negli anni 90 si vedono i prodromi di quello che sarebbe successo dopo, no? Facci caso, nel 2001 ci sono le Torri Gemelle, ma nel 93 c'è il primo attentato al World Trade Center, in cui ci si accorge di questa presenza dell'Islam radicale, eccetera eccetera. Internet comunque comincia a diffondersi attorno alla metà degli anni 90 e arriva a far esplodere la prima bolla speculativa appena prima del cambio di secolo e di millennio, diciamo così, quindi mettiamo nel 99, 2000, 2001. Cioè tutto quello che succede allora e che succede oggi è un po' figlio di quello che accade di quello che è accaduto negli anni 90. E il vero cambiamento epocale anche per il nostro paese, cioè la fine dei blocchi, no? Cioè il 1989 cade il muro, di fatto è un cambiamento da secolo, non è tanto un cambiamento da decenni. Certo. Quindi credo che la forza degli anni 90 stia proprio nel fatto che siano la rappresentazione embrionale di quello che è il nostro tempo di oggi. Quindi è il nostro tempo di oggi, però un po' più ingenuo e un po' più ruspante. Non è un'altra epoca, è la stessa epoca, però 1.0. Bella, mi piace, la riuso, la riuso, perché non avevo mai fatto questa riflessione e mi piace tantissimo. Adesso tu sei impegnato fino al 15 giugno con gli in-store. Sì. In-store significa anche incontrare le persone. Certo. In questo paese, soprattutto quello, ecco, certo. Questa è una cosa importante. E tu sei anche uno che non si nega mai alle persone, sei sempre molto generoso umanamente. Sì. In questo paese in cui di solito fanno successo e vanno di moda e piacciono, non so se per una sorta di masochismo o chissà perché, piacciono molto i mascalzoni, piacciono quelli che la fanno franca. Tu invece, sempre sui binari di una totale trasparenza, onestà, pulizia, come si fa ad avere successo nonostante non così? Ma io credo che, sai,

tu segnerai la nostra estate con Sopravviverai, e questo è non un dato, è detto, è un dato, insomma, di fatto, lo dico io, lo dico io. Ma la tua estate come sarà? Anche perché da quando non c'è più il Festival Bar, questi artisti mi sono un po' così orfani. Esatto, dopo il Festival, dopo la fine del Festival Bar sono vagano, cioè vedi proprio cantanti che vagano per gli autogrill privi di controllo, con i pantaloncini corti, le ciabatte. Dove andiamo? Noi da casa ancora siamo lì col telecomando, sì, che lo cerchiamo e non c'è da nessuna perché parte. Noi era poi la grande vacanza, no? Era andare in posti dove eravamo tutti insieme, sai, località generalmente di villeggiatura. Pensa che io ho cominciato a fare la giornalista dopo e tutti mi dicono: sai quant'era bello. Sì, sì, è una di quelle cose. Esatto. Hai perso il treno. È una delle cose più belle che si potessero fare. Purtroppo, come tutte le cose belle, finiscono. E quindi l'estate, tipo nel mio caso, sarà un'estate di, insomma, cercherò di andare avanti il più possibile a incontrare persone, appunto, negli in-store, che per me è un elemento fondamentale della promozione. Adesso dove twitto le date, twitto, esatto, l'immagine delle date, perché sono tante. E poi penso che, non so, penso che andrò una decina di giorni a New York con mio figlio per fargli vedere che ad agosto saranno 100 gradi, ma fa niente, ma sì, all'ombra, però insomma questo qua. E poi continuerò a sviluppare delle idee di canzoni che sono rimaste, ed estate è bellissimo, perché per me il modo migliore di fare canzoni è quando fa caldo per tutti gli altri sono fermi perché c'è una forma di compiacimento, tutti gli altri sono in autostrada da qualche parte, chiusi, eccetera, e tu sei nella veranda, tranquillo, con la tastierina e il computer in cuffia, e ti godi anche un po' il fresco. Quella è la cosa più bella che ci sia. Che meraviglia. Buona estate allora, Max. Buona grazie. Estate a te e a tutti, grazie. Grazie, Max. E ora incontriamo una vera leggenda. Beh, una leggenda è l'opera rock di Tim Rice, Andrew Lloyd Webber del 70, il film di Norman Jewison del 1973, Jesus Christ Superstar. Ted Neely è tornato sul palco ieri sera al Teatro Nuovo di Milano, resterà fino al 28 giugno per girare l'Italia fino all'ultimo dell'anno. Ted Neely ha 72 anni, ma è inossidabile come allora, lo abbiamo incontrato. Beh, lui viene definito un rocker senza età. Oh, that's wonderful. I'm honored to hear that. I will rock until I can't rock anymore, until the chair turns over, you see. Because I started out singing and playing drums when I was a child. I've been doing it all my life, and it's because I can scream that I'm here today, and I shall rock until I drop. Sì, sono onorato del fatto che sia stato definito un rocker senza età. Effettivamente, forse sì, lo sono. Io urlo semplicemente note alte e continuerò ad essere un rocker fino a che non cadrò. Ma lei cosa pensa quando si rivede nel film? Every time Yvonne Elliman as Mary Magdalene goes, I don't know how to love you, I cry. E tutte le volte che vedo la scena dove Maria Maddalena canta questa canzone, e io mi metto a piangere. And then with Barry Dinnan playing Pontius Pilate after the whipping, when he goes, don't let me stop it, that makes me cry too. Come anche con Barry Dinnan, che interpreta Pilato, dopo la scena delle frustate, dove canta quest'altra canzone, è un qualcosa che mi fa piangere. It's the spiritual passion that is written into this piece, both musically and lyrically, and in what Norman Jewison gave us the visions of the spiritual passion. It touches the heart. You can't help it. È un qualcosa di grande emozione spirituale che è resa dal testi delle canzoni, e dalla musica in sé, e prodotta poi da Norman Jewison, che ha permesso di renderlo insomma possibile. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo dopo tanta musica con la seconda parte della prima ora del sabato pomeriggio di Radio 24. Beh, la nostra guida, lo sappiamo, per orientarci negli acquisti mentali, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri e tecnologie. Ed è proprio il momento delle tecnologie. Ogni volta che c'è Enrico Pagliarini non è in studio, quindi adesso cercherò di capire se appare in qualche modo. Vabbè, io intanto lo introduco con una musica. Puto, mets la ceinture et mets la capuche. Gros, y'a monstre sur le périph', À la fin de la route, tournez à droite, N19, E54, rue Charles de Gaulle, démarre. Je démarre le camion dans le parc. On est les boss des boss, on est les kings de la ville. On fait du hold, on fait du deal. Dans le Audi RS, mais les kills. Garmo sur le périph' sud. GPS 9K, j'ai besoin de personne pour trouver le bouton planqué à l'arrière du tiroir caisse. Le volant. Ah, beh, questo è un pezzo di un rapper francese che si chiama Rinka. E in realtà l'ho scelto perché si intitola GPS, cioè GPS. Adesso mi ci vuole un GPS per tracciare Enrico Pagliarini. Che appare, c'è. Sì, ma chi sono questi brutti ceffi che cantano questa canzone? GPS, sicuramente non ti è sono piaciuto? Dei brutti ceffi. È un brutto ceffo, no, mi manca un bel ragazzo invece. Ah, sì. Enrico, chissà dove ti trovi tu, mi piace perché appari così magicamente dal nulla. Io guardo in regia, c'è Roberta, sì, che prima mi dice guarda Enrico piscina. Pagliarini dalla piscina. Sì, sono dovuta, stavo un po' dormendo in piscina. No, non ci posso credere, oggi fa così caldo. Quindi sì, lo diciamo sempre, piscina. Basta un'antenna GPS, un'antenna 3G, Enrico Pagliarini sì. Si collega da posti così nascosti nel mondo, sì. Però in piscina, che bello. Per sapere dove sono ci vorrebbe effettivamente il GPS. Per geolocalizzarti, caro Enrico, ma io rispetterò la tua privacy e non attiverò la mia app Find My Enrico Pagliarini per sapere dove sei. Esatto, però avrei potuto anche lasciare il telefono lontano, magari a Milano, e quindi uno vede che sono a Milano. Ah, certo, ma le sa tutte, quest'uomo. Si può barare. Allora, nelle prossime settimane gli uffici postali cominceranno che viene presentato in Italia da LG. Ci sono tantissimi prodotti di questo tipo, però sicuramente è una notizia che LG faccia un accordo con Poste Mobile, con l'operatore di telefonia mobile del gruppo Poste, e venda, lo sapremo quando, entro il mese di giugno, ancora di preciso il giorno non lo sappiamo, comunque in un paio di settimane dovrebbe uscire negli uffici postali questo braccialetto. A che cosa serve questo braccialetto? Allora, lo si fa indossare ad un bambino, pensato effettivamente per i bambini. Ha un rilevatore modulo GPS per, ecco perché dicevamo GPS, esatto, e poi ha anche un modulo WiFi, e poi scopriamo che cosa serve. E soprattutto, visto che è un prodotto che è venduto da un operatore mobile, ha anche una SIM integrata che si collega in 2G, in quel caso non c'è bisogno del 3G o del 4G perché non deve trasmettere tanti dati, ma solo la posizione del GPS, e serve sostanzialmente per controllare, per tracciare, per localizzare il bambino 24 ore su 24 in qualsiasi momento. Allora, chiaramente, beh, intanto mi viene in mente, no, le spiagge, tu hai qualcuno, hai il bimbo in spiaggia, tanta gente, il terrore di perdere un bambino. Sì, diciamo che ancora oggi nelle spiagge organizzate ogni tanto c'è l'altoparlante che dice è stato perso il bambino Matteo che si trova al bagno 36, e può essere una soluzione. Allora, in questo modo questo braccialettino è molto semplice, lo si accende, dura la batteria dichiarata 36 ore, però magari ogni giorno bisogna ricaricarlo, e questo è un altro dei problemi, cioè ogni giorno bisogna ricaricare tutti gli aggeggi elettronici che noi abbiamo. Sì, la sera è un rito, no? Sì. Prendere tutto e caricare tutto. Sì, quindi diciamo che uno deve tenere in considerazione anche questo. Comunque lo si ricarica, lo si come lo si ricarica usa? Il bambino mettendolo a dormire, sì. Si ricarica il braccialetto. Sì. E in ogni momento uno sa dove si trova. Si può, cioè, oltre a sapere dove si trova il bambino, se uno potrebbe anche dire vai dove vuoi, che tanto io ti trovo. Non volendo, credo funzioni esattamente così con i figli, ma non siamo molto esperti. Allora, volendo si può anche fare una comunicazione telefonica, cioè dall'applicazione, perché da dove si vede la posizione del bambino? Dall'applicazione che noi abbiamo sullo smartphone. Per il momento, in questo caso specifico, è solo Android, però diciamo che prossimamente immagino uscirà anche per iOS. Si può instaurare una comunicazione diretta schiacciando un pulsante, parlando direttamente col bambino, cosa che può fare anche il bambino, cioè schiacciando l'unico pulsante che c'è su questo braccialetto può comunicare con il genitore con un numero preimpostato. Se io chiamo il bambino non risponde entro 10 secondi, si può attivare una funzione, cioè attiva il microfono e io sento quello che sta succedendo. Quindi se sta litigando con gli altri bambini me ne accorgo e poi, sapendo la posizione, vado a trovarlo. Allora, devo dire che ecco, una cosa che non abbiamo ancora detto, ma che non sappiamo ancora nel caso specifico, è che bisognerà pagare un piccolo abbonamento, perché c'è una SIM integrata, quindi c'è una sorta di abbonamento dell'operatore telefonico che ci permette di ricevere la posizione del braccialetto, quindi del bambino, ma anche appunto di poter parlare tramite rete telefonica. Tipicamente questi negli Stati Uniti ci sono alcune offerte vendute dagli operatori di telefonia mobile, costano pochi dollari al mese. Quindi anche questo è un particolare da tenere in considerazione. Però se noi allarghiamo lo sguardo al tema localizzatori GPS, tracker si dice in inglese, e lo dico perché poi quando si fanno le ricerche magari su internet bisogna utilizzare il termine in inglese. I tracker GPS sono un tema che è già piuttosto maturo. È vero che ci sono sempre nuovi prodotti che escono, e devo dire che il mercato, soprattutto con le offerte dei gestori telefonici, non ha ancora visto un grandissimo successo, perché c'è sempre questo limite, questo vincolo del fatto che comunque devo pagare un piccolo abbonamento. Però il tema è vasto. Ci sono delle applicazioni che si mettono sugli smartphone e quindi che eliminano il problema del braccialetto, che permettono di geolocalizzare smartphone a vicenda. Quindi se io e te abbiamo questa applicazione e accettiamo di essere geolocalizzati, io so dove ti trovi tu e tu sai dove mi trovo io. E molto spesso, diciamo, a questo livello le applicazioni sono gratuite. Si possono fare cose ulteriori, tipo postare un'area preferita e attivare un allarme che poi viene scatenato via SMS. Sto cercando di capire la funzione, cioè la razza sotto a queste. Allora, molto semplice. Se torniamo all'esempio della spiaggia, io posso dire in questa zona che io determino uno si può muovere senza problemi. Se uno esce, per esempio, zona, lontano dall'acqua, diciamo, automaticamente arriva l'avviso. Oppure posso fare delle cose anche di diverso tipo. Impostare una velocità. Sapete che il GPS, se noi ci muoviamo ad una certa velocità, ci dice con massima precisione a che velocità stiamo andando. Anzi, è un modo ottimo per sapere la nostra vera velocità, perché quella del tachimetro sull'automobile non è sempre precisa. Allora, in questo caso io posso impostare un avviso e che nel momento in cui viene superato una certa velocità mi avvisa, che ne so, il ragazzo diciottenne che prende la patente ha lo smartphone, io genitore dico adesso su quello smartphone ci mettiamo questa bella applicazione, tutte le volte che tu superi il limite di velocità mi arriva un avviso. Incredibile, Enrico, non so se tutto questo solito, non so se mi entusiasma o mi atterrisce, non lo so, entrambe le cose. Il sabato del villaggio. Allora, rieccoci Enrico. L'app della settimana, come sempre un consiglio flash sull'app che dobbiamo scaricare. Allora, l'app della settimana è Chili, è l'applicazione di un servizio per vedere film online sul televisore, perché il modo migliore per vedere film è sul televisore. Però se noi siamo in movimento, soprattutto su tablet, poi ci sono anche molti maniaci che vedono i film sullo smartphone, e devo dire che oggi effettivamente ci sono degli smartphone con schermi abbastanza ampi e quindi è accettabile. Chili, come è scritto, con la C, con la H, con la I, con la L, con la I, è un servizio che permette di acquistare, è una specie di noleggio film però virtuale, certo, online. Ne parliamo anche perché, non so se avete detto e annunciato, che proprio oggi è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Netflix, che molti stanno attendendo. Non ne abbiamo ancora parlato, ne parleremo a lungo anche in RadioTube, perché non sappiamo anche qua se festeggiare o se essere guardinghi, cercheremo di capirlo tra poco. Certo, esatto, però devo dire che ci sono già molti servizi del genere. Allora, Chili non è esattamente come Netflix, perché Netflix a fronte di un abbonamento mensile ti fa vedere film quasi infiniti, perché poi in realtà non sono infiniti e vedremo in ottobre cosa succederà. Questo è proprio il noleggio, io lo uso abbastanza spesso quando viaggio, mi scarico, mi compro a noleggio alcuni film e poi se magari devo fare un viaggio in treno o in aeroplano ho tempo per vederli ed è molto molto comodo anche naturalmente offline quando Enrico, uno è scollegato. Adesso a proposito parliamo di cinema, quindi adesso ti lasciamo tornare in piscina, però se vuoi sentire qualche consiglio per le uscite del fine settimana è proprio questo il momento. Grazie Enrico per essere stato con noi. Ciao, ciao, ciao. Ho promesso ai miei uomini che non li avrei lasciati morire. Non combatterei con nessun altro. Più bello davvero, più bello che c'è. Gli ideali sono pacifici, la storia è violenta. Insomma, il trailer ce l'ha già suggerito. Cominciamo con uno dei film questa settimana al cinema, questo fine settimana al cinema, Fury. Ovviamente voglio subito avere il parere del nostro super esperto. Ciao Franco, Franco D'Assisi. Ciao, ciao Marta, ciao Marta. È forse il film più denso di cast, insomma, di locandina di una settimana ipertrofica per quanto riguarda le uscite. Siamo circa intorno a 15 film che hanno trovato la via della sala in questo centro settimana, prima ancora che fine settimana. Tanti, a mio avviso, ci rimarranno proprio poco in sala, ma insomma le uscite sono arrivate. Certo, manca il film che può scuotere particolarmente il botteghino. Questo Fury può provarci, non fosse altro appunto per un cast ricco e variegato che mette insieme Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, ed è un film di guerra, è un genere che abbiamo un po' dimenticato. Il cinema è, come dire, è ciclico, ci sono momenti in cui si rivive un genere. Pensate a cosa sono stati gli anni 90 per esempio con il genere sul Vietnam, oppure a cosa siano stati ancora gli anni intorno a Salvate il soldato Ryan per il cinema bellico sulla seconda guerra mondiale. Ecco, siamo da quelle parti, aprile 45, siamo in pieno attacco alleato contro i nazifascisti e un sergente appunto chiamato War Daddy che si muove con mezzi e modi piuttosto rudi, manco a dirlo, con il suo equipaggio e 5 uomini ingaggia una missione mortale beyond enemy lines, come si diceva, no? Dietro le linee nemiche, inferiorità numerica, disarmato, riuscirà comunque a compiere un gesto eroico contro la Germania nazista. Un plot che, diciamo così, piacerebbe, sarebbe piaciuto ed è piaciuto sicuramente a Steven Spielberg. Un film che sicuramente accontenta gli amanti del genere bellico, lo rivisita esteticamente un pochino, modernizzando la fotografia basata su questi toni di grigio plumbeo un po' desaturati. Tutto sommato sul fronte del racconto non è che ci sia proprio tantissimo di nuovo. C'è Brad Pitt, che può essere sempre un tuo commerciale, buttalo via, diamolo ai gatti, diciamo. Appunto, come si suol dire, è sempre una visione interessante. Ma giusto, hai ragione anche tu, e detto questo dettaglio critico direi che il film in America è andato bene ma non proprio benissimo. 80 milioni di dollari di incasso, che comunque per un film di questo genere non sono neanche pochi. Adesso vedremo quale sarà il suo appeal in Italia e si riuscirà a scuotere questa classifica, come dicevamo prima. Senti, da giudizio critico in giudizio critico, va bene Brad Pitt, però pure Kate Winslet questo fine settimana per gli amanti del genere c'è anche lei al cinema. Sì assolutamente, stiamo parlando delle Regole del Caos, che è un film, un titolo che ha già un'antitesi dentro la sua, così, il suo racconto. Siamo nel 600, addirittura alla fine del 600, quando questa donna, Sabine de Barra, interpretata, come dicevi giustamente tu, da Kate Winslet, che nel film è affiancata da Alan Rickman, per dire di un altro volto famoso, una donna forte, una donna che sa quello che vuole, paesaggista nei giardini della campagna francese, riceve l'invito per un incarico molto importante alla corte di Luigi XIV, appunto Alan Rickman. Chiaramente lì incontrerà un artista artista con il quale chiaramente ci sarà una, come dire, una storia che sarà di attrazione e anche di allontanamento. Però la cosa interessante di questo film, che è diretto da Alan Rickman peraltro, è quella di provare a raccontare ancora una volta un profilo di donna molto forte, e ambientandolo se possibile ancora prima, cioè prima di così c'è Giovanna d'Arco, so, di prima di così. Invece il cinema europeo, anglosassone in particolare, ci ha insegnato proprio a raccontare questi profili di donna, ma ad ambientarli in un'epoca vittoriana, casomai, no? Qui siamo addirittura nel 600. L'esperimento interessante è che Kate Winslet è molto intensa, il film è di buona qualità per gli amanti del film in costume tout court, diciamo così, e per le atmosfere comunque rarefatte che un film di questo tipo può consegnare. Appassionati di cinema italiano, c'è qualcosa di italiano, anche se non è più tanto la stagione per le grandi uscite? Sì, diciamo che i film di Cannes in generale italiani hanno un po', come dire, occupato quello che è il botteghino, e anche le sale stanno ancora abbastanza in salute, sia Sorrentino sia un po' meno Garrone, un po' meno Moretti, che però era uscito prima, quindi aveva avuto più tempo per farsi vedere. Però qualche piccolo esperimento c'è e vale la pena sottolinearlo. Per esempio questo Fuori dal coro di Sergio Misuraca, che tra l'altro è una storia umana personale divertentissima, perché lui avrebbe sempre voluto fare il cinema, però faceva il cuoco, e a un certo punto ha preso, emigrato negli Stati Uniti, a New York, si è messo a fare il cuoco lì ed è diventato il cuoco del ristorante dove andava a mangiare sempre De Niro. È nata un'amicizia in questo senso. Lui però lì in questa sua, diciamo, gita piuttosto lunga fuori porta, si è portato a casa il gruzzolo poi per riuscire a produrre questo suo primo film. Beh, in un mondo in cui solo i cuochi sono le star, invece c'è qualcuno ancora che ama il cinema. Esatto, e ha diretto un film che non c'entra nulla con la cucina, tutto ambientato in Sicilia, in una Sicilia contemporanea dove ci sono questi due disoccupati un po' sciamannati, insomma, questo Dario e Nicola, non più neanche così giovanissimi, diciamo, che però un po' per pigrizia, un po' perché la crisi è quella che è, non riescono a trovare lavoro. E cosa succede? Si cacciano nel peggiore dei guai, cioè in quello di accettare un incarico di quelli che non se possono rifiutare, e di portare una busta misteriosa che ovviamente dopo pochi minuti sparisce e diventa il motivo vero del film. Però è bello questo film, al di là del tentativo di fare un cinema ironico di commedia, però con gli stilemi del poliziottesco all'italiana. C'è un film dove i personaggi, per esempio c'è un personaggio particolare che è lo zio di uno dei protagonisti, zio Tony Love, vorrei far notare questa cosa, che proprio hanno quasi il volto e le sembianze, sono una vera citazione vivente di Maurizio Merli, di quel tipo di attori che popolavano il cinema italiano poliziesco degli anni 70. Quindi c'è anche un omaggio molto cinefilo in questo Fuori dal coro, e sicuramente abbastanza originale. Franco, l'appuntamento con te alle 18, dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Qualche chicca della puntata di oggi? Sì, guarda, parleremo appunto con Sergio Misuraca, che ci racconterà la sua storia, ma faremo vedere, io sono già proiettato. Noi facciamo vedere il cinema alla radio. Un film che si intitola Cinema Comunisto, con la K davanti e la O finale, che con frame di film jugoslavi dimenticati mette insieme la storia di un paese e in particolare del rapporto che c'era fra Tito e il cinema in Jugoslavia. Jugoslavia, ricordiamoci, negli anni di Tito è stato uno dei paesi più, come dire, più esplosivi sotto il profilo creativo, a parte la scuola di Sarajevo, che era una scuola di cinema fantastica a livello europeo, però era anche una fucina incredibile di sceneggiatori, di registi, di attori di grandissimo livello. Ebbene, questo film cerca di raccontare quella storia e il suo rapporto col regime. Noi a nostra volta ci metteremo in contatto con Marian Vujovic della Cineteca di Belgrado, che tra l'altro è un collega che parla perfettamente l'italiano, e ci racconterà un po' che cosa è stato, cosa ha significato il cinema per il nostro paese di rimpetto. E quindi direi che è sicuramente un viaggio in un mondo poco conosciuto che vale la pena sentire. Sarò lì con la radio accesa, appena dopo Radio Tube io torno a casa in macchina e ti ascolto. Grazie Franco, allora appuntamento con te alla Rosa Purpurea alle 18, invece al Sabato del Villaggio sabato prossimo. Grazie Franco. Ciao. Il Sabato del Villaggio. Ed eccoci insieme con la seconda delle tre ore con il sabato pomeriggio di Radio 24, i nostri liberi consigli per il fine settimana, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, e poi dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà in questa seconda ora del sabato del villaggio? Torniamo a parlare di musica con i grandi eventi live di giugno. La nostra esperta preferita ci darà tutti i consigli sulle date da non perdere. Poi il social eating, ma anche la dieta crudista, nell'appuntamento con Maria Luisa Pezzali, e i consumi e le nuove tendenze. Ancora i libri con gli imperdibili di Alessandra Tedesco, ma subito, per il nostro spazio dedicato come di consueto al Fuori Expo, un appuntamento di grande benessere. In anteprima qualche settimana fa, si chiama Milano Food and Wellness, per parlare di alimentazione sana e sport questo fine settimana alla Triennale appunto di Milano, e per presentarci tutto ovviamente il direttore artistico che al Sabato del Villaggio ospitiamo sempre con entusiasmo, Marco Bianchi. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Ci siamo ormai veramente, ci siamo, è il weekend questo, quindi Milano Food Wellness inizia. Marco, allora cosa succede in questo Milano Food and Wellness? Succede di tutto, infatti vi aspetto alla Triennale di Milano, perché si cucina, si fa sport, si fa attività fisica di vario genere, si può fare dai 2 anni fino ai 100 anni, perché veramente c'è un'attività per tutti, e poi soprattutto si fanno anche tante chiacchiere buone, chiacchiere di salute con tantissimi esperti, amici, professionisti del settore bellezza, del settore medicina, del settore sport professionisti, insomma. Veramente ci sarà da divertirsi, da sudare, ma anche da mangiare. Divertirsi e stare meglio, perché una cosa che ci ha insegnato: mangiare bene e fare attività fisica è una cosa piacevole. Quindi stare bene ed essere anche felici. Sì, assolutamente, diciamo che è proprio l'elisir per mantenersi giovani, giovani mentalmente, fisicamente anche, ma anche appunto per sorridere, per imparare a sorridere e a vivere di pieno benessere. Mettiamo in moto una serie di molecole con l'attività fisica che permettono alle nostre cellule di mantenersi giovani, di comunicare tra di loro in modo sereno, quindi senza troppi blocchi appunto di comunicazione che a volte avvengono durante la nostra vita, e poi soprattutto mangiando in un certo modo, portando gli alimenti più sani, più legati proprio all'attività poi funzionale vera e propria, ecco, e questo rappresenta veramente il matrimonio di benessere, Milano Food Wellness praticamente. Tanti eventi dedicati ai bambini, perché bisogna cominciare presto. Bisogna assolutamente cominciare presto. Gli ultimi dati continuano a confermarlo. Purtroppo siamo messi male in Italia, continuiamo a fare un po' i pigroni. I bambini aumentano la loro soglia di sovrappeso, obesità, e quindi sì, bisogna iniziare da presto. Dobbiamo essere noi stessi ovviamente ad aiutarli, quindi incentivarli e proporre loro tutte le attività possibili e immaginabili. Ovviamente al primo no non fermiamoci, ovviamente andiamo avanti a riprovare, eventualmente se no troviamo un'alternativa, perché c'è l'alternativa sempre. Ma come sta andando, Marco, la tua attività di Expo Ambassador? Sì, ho questo compito di portare avanti insomma la nostra dieta mediterranea come anche sinonimo di prevenzione, di salute, oltre che di territorialità. Cioè non abbiamo soltanto pasta e pizza, di cui anch'io sono ghiotto, però abbiamo tanti cereali integrali, abbiamo i legumi, abbiamo le verdure, abbiamo il nostro olio extravergine d'oliva, e quindi Marco Bianchi è in Expo proprio per questo motivo, per parlarne con tutti. Ho diversi appuntamenti che mano a mano appunto snocciolerò sui sui social e mi permetterà appunto di essere presente con Show Cooking, con momenti di incontro, di dibattiti, anche di speech, insomma aperti al pubblico. Quindi vi aspetto proprio nel nostro padiglione Italia e mano a mano vi dirò quando, però adesso ad esempio il primo sarà proprio adesso a metà giugno, quindi ci siamo. Dunque questo weekend alla Triennale di Milano, Milano Food and Wellness, c'è anche l'hashtag cancelletto MFW15. Grazie a Marco Bianchi. Io ringrazio voi e vi aspetto in tantissimi, mi raccomando. Entriamo in atmosfera perché mi dicono che questa sera c'è una partita. Ho sentito parlare di una partita di calcio e ho sentito che uno dei nostri colleghi, uno dei miei colleghi preferiti, si trova a Berlino. Ma chissà come mai. Buongiorno Dario Ricci. Ciao Marta. Dario, un'amichevole di lusso. Una partitella stasera, una partitella. Sì, vabbè, c'è un po' di attenzione, un po' di sta salendo l'attesa per gli juventini, per gli anti-juventini, per chi ama il calcio e per tutti, perché comunque non si parla d'altro da ore. Dario, poi ti disturberemo anche durante RadioTube, però voglio sapere com'è la situazione, perché hai già fatto qualche passeggiata per Berlino. Com'è la situazione? Sì, guarda, sono rientrato da pochissimo proprio da un'infuocata porta di Brandeburgo, perché anche qua la temperatura è intorno ai 30 gradi, ma questo non ha spaventato i tantissimi tifosi catalani e bianconeri che si stanno incontrando pacificamente, direi, per le vie della città. Devo dire, spargendo un po' di melassa intorno a questi appuntamenti, come d'obbligo, finora una bella festa del calcio, veramente l'atmosfera è davvero piacevole, così come lo è anche nell'hotel che mi ospita, che è lo stesso del Barcellona. Io stanotte ho provato un po' a alzare lo stereo, a sbattere un po' gli zoccoli. Hai cercato di disturbare il sonno? Sì, ho cercato di fare il possibile, solamente loro sono talmente in alto, ai piani talmente alti, che credo che non mi abbiano sentito, insomma, quindi diciamo cercato di riportare la mia parte alla causa, ma non credo che basterà, ecco. Però devo dire, anche è bello vedere comunque le compagne dei vari campioni, Lady Messi, che come hai visto è stata immortalata. Sì, si parla tanto di Lady Messi, carina, piccina, l'hanno definita un po' poca così, ontas. Brava, ecco, infatti so che sei attenta a questi aspetti, te lo posso confermare, abbiamo preso l'ascensore insieme, molto simpatica. Per cui l'atmosfera è davvero, davvero bella, cioè, quasi si potrebbe fare a meno della partita, che invece è il piatto forte e che inevitabilmente scontenterà qualcuno stasera, però il teatro è magico, quella musichetta che hai fatto sentire fa venire i brividi, e anche quella serve un po' a costruire l'Europa che tante volte raccontiamo, anche attraverso il calcio. Farlo qua a Berlino non è poi così banale, no? Beh, poi Berlino per noi è sempre molto importante quando si parla di calcio. Dario, allora noi ti chiamiamo tra un'oretta durante RadioTube, anche perché abbiamo dei dati molto interessanti che riguardano la rete, come i social hanno parlato di questo appuntamento. Intanto volevamo cominciare a respirare un po' di aria rovente a questo punto di Berlino. Dario, allora a tra poco. Cuciniamo Wüster a temperatura ambiente, direi. Grazie a Dario Ricci, a tra poco. Dario, noi ci risentiamo tra pochissimo perché è il momento di tutti gli aggiornamenti della viabilità. Il sabato del villaggio. E quindi torneremo a parlare di calcio, di questa finale di Champions League nel nostro appuntamento con RadioTube, che vi ricordo sarà dopo il GR delle 17, quindi 17:18 ancora in diretta nel sabato pomeriggio di Radio 24. Intanto vi ricordo anche il numero per i vostri SMS per qualsiasi cosa vogliate chiedermi: 349-238-6666, il mio account di Twitter è @MartaCagnola. Adesso però è il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Alessandra Tedesco mi ha detto: cominciamo parlando di vino, scegli tu una musica per presentarmi. Io, quando posso ascoltare Billy Joel, visto che lo amo profondamente, lo scelgo volentieri. Una bottiglia di rosso, una bottiglia di bianco, scene da un ristorante italiano, una canzone di qualche annetto fa. Ma chissà perché parliamo di vino, lo chiediamo alla nostra Alessandra Tedesco, che questa volta però non è con me in studio, chissà dov'è. Ciao Alessandra. Ciao Marta, mi trovo a Cagliari in questo momento. Anche noi ogni tanto andiamo in vacanza, diciamo così. Ah, Cagliari si beve bene anche in Sardegna. Si beve a onore del vero bene anche in Sardegna. Tu stai parlando con una che è allergica all'alcol, quindi è logico che poi devi scegliere tu le canzoni quando si parla di alcol, di vino, eccetera. Perché tu lo sai, io sono una grande intenditrice di vini rossi fermi, ma sono allergica all'alcol, quindi non posso berli. Che disdetta. Però puoi parlare di vino quando ha a che fare con i libri. Perché libri e vino questa settimana, Alessandra? Guarda, libri e vino, come libri e cinema, insomma, in questo tu sei esperta più di me, sono un'accoppiata quasi sempre vincente, bisogna dire. E c'è un libro di cui si sta parlando molto ultimamente, nelle ultime settimane, che si intitola La vigna di Angelica. L'ha scritto Sveva Casati Modignani, pubblicato da Sperling e Kupfer. Sveva Casati Modignani è, come dire, la signora della narrativa italiana. Ogni volta che lei pubblica un romanzo arriva subito in vetta alle classifiche, quindi è logico che anche in questo caso, appena pubblicato il libro, è arrivato in cima alle classifiche, se ne sta parlando parecchio. Come si capisce dal titolo, La vigna di Angelica, va da sé che il romanzo, la storia, è ambientata in una vigna del Bresciano. C'è questa donna, Angelica, che ha circa 35 anni ed è appunto erede di questa grande famiglia che produce vino. A un certo punto inizia a ricevere degli strani messaggini, insomma, secondo i quali suo marito avrebbe un amante, insomma, le mettono un po' la pulce nell'orecchio. E quindi, in un momento così di stanchezza, mentre andava in moto con il casco annebbiato, diciamo, dalle lacrime, ha un piccolo incidente. Ma sai, nei romanzi di Sveva Casati Modignani gli incidenti sono sempre dei segni del destino, hanno sempre un risvolto romantico, perché questo piccolo incidente avviene con Tancredi, che è uno chef stellato, e non ti dico altro. Beh, dimmi solo a chi lo consigliamo. Già secondo me sarà un romanzo un po' romantico, io ho voglia di leggerlo, mi sembra un romanzo adatto ai pomeriggi estivi. Sì, secondo me proprio hai azzeccato, possiamo dirlo. Allora, sicuramente è un romanzo che va bene per tutti i fan, tutte le fan, dico, perché pubblico soprattutto femminile, quello che legge Sveva Casati Modignani, che ha voglia di un romanzo, insomma, con risvolti romantici, con risvolti passionali e anche con risvolti che hanno a che fare appunto con l'enogastronomia, perché oltre alla questione del vino si parla anche di cibo, tant'è vero che la scrittrice Sveva Casati Modignani prima di scrivere questo romanzo si è fatta un po' di chiacchiere, niente poco di meno che con Gualtiero Marchesi, Bottura, Cannavacciuolo, insomma è andata a mangiare, ovviamente a chiacchierare con i migliori chef stellati italiani per farsi dare un po' di ispirazione. E diamole torto, per chi invece avesse gusti completamente diversi, mi hai detto che c'è anche qualcosa con un po' di brivido. Sì, allora, per chi ha voglia di brivido, mettiamola così, si sta parlando parecchio nelle ultime settimane della nuova opera di Stefano Benni, Cari Mostri, pubblicato da Feltrinelli. Non ho parlato di romanzo perché si tratta di racconti, che è uno stile, diciamo, caro a Stefano Benni. Tecnicamente sarebbero dei racconti dell'orrore, ma quando li scrive Stefano Benni ovviamente non può mancare l'ironia, quindi diciamo più che di orrore si parla di grottesco. Per esempio, uno di questi racconti è incentrato sull'ossessione tecnologica contro la quale Benni si scaglia spesso e volentieri, e immagina quest'uomo che, adesso ve lo dico in pochissime parole, viene disabilitato, cioè a un certo punto non funziona più il suo banco, bancomat, la sua carta d'identità elettronica, il suo cellulare, quindi continua a sentire queste vocine: lei non è abilitato, io non sono abilitata a rispondere, questo non è un servizio a lei destinato, insomma tutta una serie del genere. Quindi la tecnologia che si rivolta contro e diventa appunto un mostro, quindi diciamo sì, racconti dell'orrore, ma più che altro racconti grotteschi. Del resto lo stesso Benny ha voluto insomma spiegare che cosa intende lui per mostro durante la presentazione che ha fatto di questi racconti, cari mostri, al Salone del Libro di Torino. Sentiamolo. Etimologicamente monstrum vuol dire prodigio, è qualcosa, è un monito, viene da monito, quindi è un segno, un segnale che qualcosa si sta trasformando. Il mostro fa più paura se la porta è chiusa, se è dietro la porta, fate sì con la testa. Nel senso che se io vi fa più paura un mostro, una porta chiusa e dietro sapete che c'è il mostro, o vabbè, la porta si spalanca, entra il mostro, può anche essere Gasparri, ma in fondo alla fine può, come i bambini insomma ci parlano col mostro, ecco. Siamo in un periodo di mostri con la porta chiusa, perché la famosa diretta televisiva, la cosa che in realtà lo schermo scherma, non ce lo fa vedere bene il mostro, perché è troppo lontano, non ci dà tempo per pensare, quindi la nostra paura aumenta. Ci porta subito alla mente Youth di Paolo Sorrentino, perché lui ha avuto un ruolo molto attivo in questo film di Paolo Sorrentino. Però Alessandra, visto che parliamo di libri, sarà mica tratto da un libro Youth di Paolo Sorrentino? No, stavolta hanno fatto il contrario, Marta. Hanno tratto un libro. Sai della serie, insomma, è nato prima l'uovo, la gallina, eccetera. Stavolta è nato prima il film con la sceneggiatura, e dalla sceneggiatura del film è stato poi pubblicato il libro. Infatti uno dei libri di cui si sta parlando in questo periodo è La giovinezza, Paolo Sorrentino, pubblicato da Rizzoli, che è, diciamo, proprio la vera e propria sceneggiatura del film. Diciamo che Sorrentino ha comunque delle capacità narrative che aveva dimostrato anche in passato, per le quali si legge un po' come un romanzo questa sceneggiatura, però tecnicamente è proprio la sceneggiatura del film La giovinezza, quindi la storia di questi due uomini. Lo ricordiamo brevemente anche per chi insomma non avesse ancora visto neanche il film, che sono un po' al termine della loro vita, hanno sugli 80 anni, uno è un ex direttore d'orchestra, l'altro è un regista che sta lavorando alla sceneggiatura del suo ultimo film, e condividono così pensieri e riflessioni sull'ultimo periodo della loro vita. Invece per quanto riguarda Matteo Garrone, allora sappiamo che Il racconto dei racconti è tratto da un'opera molto importante. Tu ci stai consigliando di andare a recuperare un'opera del passato remoto? Allora, noi sappiamo che il film di Garrone è tratto da L'Occunto degli Conti di Giambattista Basile, scritto nel 1632-35, insomma siamo in quel periodo lì. Ti dico che la versione, diciamo, integrale di questi racconti, innanzitutto erano scritti in napoletano, comunque ci sono anche le traduzioni in italiano con il testo a fronte, la versione integrale supera le 1000 pagine, quindi insomma bisogna essere proprio determinati per andare a cercare, ad andare a leggersi Giambattista Basile. Però in occasione del film la Donzelli ha pubblicato un'edizione, come dire, ristretta, che si intitola La pulce, la cerva e la vecchia scorticata, tre fiabe dall'Occunto degli Conti, che sono poi i tre racconti che hanno ispirato il film di Garrone. In appendice c'è il testo in napoletano, però prima c'è il testo in italiano, e queste erano appunto delle favole che aveva scritto Basile nel 600, favole più che altro dedicate a un pubblico adulto, perché i risvolti sono insomma anche in questo caso forse più dell'orrore che non nel caso di Stefano Benny, quindi c'è il grottesco sicuramente. sicuramente ci sono tante altre sfumature che ai bambini non sono proprio raccomandate. Mettiamola così, dovremmo fare una versione edulcorata della storia della pulce, per esempio. E dopo questa rubrica era meglio il libro, come si dice sempre, usciti dal cinema. Chissà, adesso leggiamo la sceneggiatura dell'uno e soprattutto una versione accessibile dei racconti dell'altro, poi ne parleremo. Alessandra, l'ultimo consiglio, quello che ti voglio chiedere, è quello del cacciatore dei libri. Quando e cosa ci farei sentire? Il cacciatore di libri, come sempre, è andato in onda stamattina alle 6:30 per i mattinieri, ma è in replica stasera alle 22, e vi parlerò di due libri che veramente per sentimenti, atmosfere completamente diverse mi sono piaciuti molto. Uno di Mattia Signorini e l'altro di una esordiente, Carmen Totaro. Quindi vi aspetto alle 22 perché, insomma, ce n'è da dire di questi libri. Alessandra, invece, la prossima settimana ti aspetto in studio. Alla prossima settimana, Alessandra. Ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Abbiamo parlato di Expo, fuori Expo, abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di tecnologie. Adesso però, nel sabato pomeriggio di Radio 24, nel sabato del villaggio, è il momento di aprire un nuovo capitolo, è il momento di aprire il capitolo delle nuove tendenze, il capitolo relativo ai consumi. Sentiamo cosa ci ha portato Maria Luisa Pezzali questa settimana. Allez chérie, sors tous les verres. Le vieux Chianti, les boîtes de bière. La grande soupière, les salamis. On verra pas passer la nuit. Hey! Beh, questa canzone ha qualche annetto, ha tanti annetti. Si organizzava una festa un po' improvvisata, ognuno portava qualcosa alla bonne franquette, come diceva Herbert Pagani. E con questa canzone parliamo di cibo e introduciamo con noi Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Parliamo di cibo in che senso, Maria Luisa? Parliamo di social eating, il fenomeno del momento, sulla scia del boom della sharing economy, l'economia della condivisione, cioè di tutte quelle piattaforme di cui abbiamo parlato altre volte, che mettono in contatto le persone per lo scambio di beni o di servizi. Iniziamo a definire i contorni della tendenza. Okay. Pranzi o cene in case private tra sconosciuti, godendosi quindi il cibo, il buon cibo e la conversazione, gli ospiti contribuiscono alla spesa. Il prezzo viene fissato dal padrone di casa in base al costo degli ingredienti, all'abilità come cuoco, oppure anche alla location, perché il tipo di abitazione influisce poi sul prezzo che viene fissato. Come funziona? Ci si iscrive alla piattaforma prescelta, tra poco elencheremo quelle più note, ma veramente ne nasce una ogni giorno, ne nascono veramente moltissime anche in Italia. Si sceglie la cena in base ai propri gusti, quindi al tipo di menù, al giorno prescelto, alla data, al numero di commensali, appunto all'indirizzo, e poi ci si presenta. Quindi per mangiare, magari conoscere, sperimentare, vedere nuovi posti? Sì. Tutto quello che hai detto, sono proprio tutti gli ingredienti. Le piattaforme, dicevamo, anche in Italia si stanno moltiplicando. Gnammo.com è la prima e la più grande community italiana. Poi ci sono fenomeni locali come a Milano, My Hidden Kitchen Supper Club. Il sito è dalle iniziali mahkc.it. Magari lo twittiamo perché esatto. È complicato. Oppure a Roma, ceneromane.it. Poi ci sono le piattaforme internazionali presenti anche in Italia, come l'americana Eat With, chiamata l'Airbnb del cibo, perché il modello è sempre quello, oppure la francese Visit. Il fenomeno è veramente un fenomeno mondiale, può rappresentare anche una fonte di reddito integrativo, l'occasione di fare nuove conoscenze, lo abbiamo detto, e poi un'esperienza unica per i turisti. E questo spiega perché, ad esempio, a Milano, proprio in questo periodo, sulla scia ovviamente di Expo siano nate piattaforme come piaceremilano.it, che è un progetto non solo di social eating ma anche di turismo collaborativo. Ci sono ad esempio, c'è la possibilità di avere delle guide locali, che altro non sono che i cittadini di un determinato quartiere che accompagnano i turisti in giro per la città facendo scoprire, bello, full immersion, sì, facendo scoprire degli aspetti inediti ovviamente da quelli che sono normalmente riportati sulle guide. Oppure ancora Stand By Me, con la I finale perché mi sta per Milano, che offre anche concerti e spettacoli teatrali nelle case private, non solo le cene. Quindi tutto un mondo, Marta, bello, da bello, scoprire. Mi piace. Chiuderei però questa carrellata con le mie preferite. In realtà sono le antesignane del social eating, sono le cesarine di homefood.it. È un circuito che dal 2004, quindi antesignane a tutti gli effetti, riunisce 500 signore in tutta Italia che aprono la propria cucina agli ospiti e insegnano le ricette della tradizione. Bellissimo. Quindi tortellini, lasagne, loro sono nate a Bologna, quindi insomma c'è una vera tradizione lì da insegnare, un po' come andare a mangiare dalla zia o dalla nonna la domenica. È un progetto di cui hanno parlato negli anni molti media, anche internazionali. Un pranzo in famiglia in Italia, questo me lo sono segnato, ha scritto il New York Times, è una delle esperienze da provare almeno una volta nella vita. Allora me lo segno perché voglio provarla anch'io, non ho ancora provato. E allora noi ce la siamo fatta raccontare, abbiamo intervistato la presidente Stella Coppi, ecco che cosa ci ha detto. Le cesarine e i cesarini, devo sottolinearlo, sono diciamo signore e signori che hanno la cultura della tradizione, intesa come la tradizione della propria regione, della propria famiglia, e quindi hanno piacere di condividere la realtà italiana e regionale con i loro ospiti. Voi siete nati nel 2004. Da allora quanti ospiti hanno visitato le case delle cesarine? Beh, diverse migliaia. Diciamo che la maggior parte sono stranieri che ci raggiungono attraverso il nostro sito che è homefood.it. Adesso si sta scoprendo anche in Italia il piacere di condividere le tavole delle case italiane. Quanto costa? Bisogna iscriversi all'associazione, i pranzi, le cene, quanto sì, costano? Al momento il pranzo o una cena costa 50 euro, però probabilmente ci sarà una politica di ridimensionamento, soprattutto diciamo nelle aree meno turistiche del paese. Social eating e sharing economy, voi vi sentite inserite in questo contesto? Ma guardi, noi sicuramente ci inseriamo anche in questo scenario. È chiaro che noi abbiamo una base che abbiamo solo noi, perché abbiamo un'esperienza di 11 anni grazie alla fondatrice, alla professoressa Di Nallo, che ha avuto questa intuizione, ma soprattutto il nostro scopo non è quello di far semplicemente incontrare una domanda e un'offerta di cibo o di esperienza prettamente social. Noi in tutto questo aggiungiamo un valore culturale e di tradizione e di legami col territorio che abbiamo solo noi. Dunque, viva le cesarine, Maria Luisa, mi piacciono tantissimo. Assolutamente sì, io mi ero anche candidata negli anni, insomma, vorrei diventare una cesarina. Vorresti insegnare anche a cucinare? C'è qualche specialità locale? Qualcosina so fare, quindi insomma mi devo ancora un po' allenare, però diciamo che è un bel progetto per il futuro. Buona bicesarina. Adesso però è il momento delle nostre astuzie, dei nostri consigli anticrisi, quindi abbiamo in linea la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Rimaniamo dunque in tema di cibo, mi anticipava Maria Luisa. Sì, però ci vuoi mettere a dieta subito dopo questa buffata, noi già vero? Sognavamo le lasagne, i cannelloni, no? Niente? No, niente, ah. No. Soprattutto non vi metto in cucina, il che potrebbe essere una bella cosa. Magari Maria Luisa meno, io personalmente mi siedo volentieri a tavola. Tra l'altro, se posso dire, ho mangiato una volta le cesarine, le consiglio perché effettivamente è un'esperienza che va vissuta, perché è proprio entrare nella vita, nella casa di qualcuno che ama molto cucinare e quindi condivide con te qualcosa che sa fare molto bene. Però io sono una più da, come dire, da questa parte del tavolo più che dei fornelli, ed è come qui infatti col crudismo, perché non so se anche voi vi siete chiesti queste le nuove diete eccetera eccetera. È nato un sito che si chiama cibocrudo.com, che c'è già da qualche anno, però di fatto in questo momento ha iniziato a fare l'e-commerce. Cos'è il crudismo? Io mi sono un po' informata ed è quello che ti dice: meno lo cucini, meno è stato cucinato, più tutti i valori intrinsechi al cibo rimangono, e quindi sono cibi che non sono mai stati passati a più di 42 gradi, il che significa che o sono proprio crudi, vegetali, frutta eccetera, come normalmente tutti li consumiamo, oppure sono cibi che sì, sono stati precucinati ma con delle temperature talmente basse che di fatto non hanno disperso nulla. La dieta crudista di fatto si muove molto, tra l'altro noi in Italia abbiamo di che gioire, perché comunque noi abbiamo frutta, verdura con grande quantità, ma gli si sono aggiunte tutta una serie. Ad esempio, voi sapete che il famoso cacao, se le fave sono crude per l'appunto, hanno tutti quei poteri antiossidanti eccetera eccetera. Se invece vi mangiate una tavoletta di cioccolato così come la trovate normalmente al supermercato o anche al negozio chic, beh, lì tutte queste proprietà se ne sono un po' andate. Certo, però il gusto cambia. Io ho provato una volta, non sì. so Marta, mi è arrivato un pacco natalizio e c'erano le fave di cacao. Non lo consiglio, almeno. Bisogna essere predisposti probabilmente. Ma Cristina, in che senso può essere anche un'astuzia anticrisi il crudismo? Beh, uno, tanto per incominciare, ovviamente non devi aggiungerci nulla. In linea di massima ci sono anche delle ricette fatte con cibi crudi eccetera eccetera, quindi di fatto in qualche maniera non consumi né gas né, e in più sempre con le ricette anticrisi, noi sappiamo che la crisi non è solo quella di oggi ma quella del futuro, ovviamente il crudismo ti porta anche ad avere meno rifiuti, perché i cibi che compri o che sono afferenti a questo tipo di dieta in linea di massima non ci sono scatolette, non ci sono packaging, cioè tutto quello che normalmente uno va a comprare e se lo mangia praticamente tutto. Vi aggiungo anche una cosa che mi ha molto divertito, anche se anche lì non sono particolarmente entusiasta personalmente, la paleodieta, che è un passo ulteriore del crudismo. Le paleodiete sono quelle che ti dicono: andiamo a mangiare non solo i cibi crudi o poco cucinati, ma torniamo anche a quei cibi dimenticati, antichi, perché il nostro DNA, non essendosi evoluto così tanto come magari altre cose, in linea di massima è più in grado di accettare dei cibi che sono lontani nei secoli, come quelli che appunto paleo mangiavano i nostri antenati. Allora, rispetto a tutto questo, se posso aggiungere un'ultima cosa, mi raccomando, con dovute attenzioni, perché il pollo crudo no, ci sono una serie di cibi che al di là che ci piacciono o non ci piacciono è meglio cucinarli, perché altrimenti rischiamo tutta una serie di malattie che diciamo che l'uomo delle caverne, per quanto mangiasse paleo, è sicuro che non vivesse fino a 90 anni. Noi invece vogliamo vivere fino ai 90 anni, quindi attenzione a queste diete con grano salis, con curiosità, però un po' di attenzione. E poi Cristina, svegliamo anche qualche aneddoto, qualche retroscena della corrispondenza che anticipa sempre i temi delle puntate. Marta, anticrisi di panico mi ha scritto Cristina perché effetto dieta, quindi contro insomma la prova, a favore della prova costume, ecco, in questo caso. Assolutamente, perché ragazzi, a un certo punto quante fave di cacao vi vorrete mangiare? 3-4. Quante tavolette di cacao, di cioccolato siamo in grado di mangiare? Beh, io parecchie, assolutamente. Quindi se vogliamo andare in costume snello, buttiamoci sul crudismo, che un po' perché non ingrassa, perché non ci sono grassi aggiunti, e un po' perché dopo un po', diciamocelo, stufa. Beh, allora io adesso mi faccio tutta una meditazione, perché ho guardato le foto, effettivamente i cibi sono tutto sommato invitanti. Non so quanto posso resistere, però accetto il suggerimento di Cristina. Grazie Cristina Lazzati per essere stata con noi, a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Cristina. Maria Luisa, non so se anche tu adesso valuti l'opzione crudista. Io non sono proprio adatta al non crudismo, lo so. Devo confessarlo, no. La bistecca la prendo sempre cottissima, quindi no, qui non ho vista neanche una, né cruda né cotta. Maria Luisa, invece l'appuntamento con te, con Essere a Bere, domani alle 15. Ciao Marta, un saluto a tutti, alla prossima settimana. Hey! Ce soir on fête l'anniversaire de Marie-France et de Jean-Pierre. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Chérie, passe-moi ton tablier. Yo, aura Françoise et puis Monelle. Madame, hey, qui amène des fleurs et un gâteau. Albert apporte les chandelles. Madame, hey, et il y aura Philippe le mordu de l'opéra qui viendra nous faire des photos. Les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Beh, un po' di Herbert Pagani fa sempre bene riascoltare un po' di Herbert Pagani. Sono le 16:44 minuti 53 secondi a Radio 24, quindi adesso è il momento di aggiornarci su quello che sta succedendo su strade e autostrade, e poi avremo l'ultimo spicchio del nostro sabato del villaggio prima o poi dell'ora di RadioTube. Il sabato del villaggio. Beh, temperature estive, sicuramente a Milano. Sentivamo prima anche a Berlino, ci raccontava il nostro Dario Ricci, che poi riascolteremo tra poco, lo richiameremo per sapere come sta andando l'attesa della grande finale di Champions League. Temperature, dicevamo, estive, quindi grande voglia di stare all'aperto, di assistere a concerti. C'è qualcuno che noi sentiamo sempre con grande piacere perché è una grandissima esperta di concerti e anche lei in un posto molto particolare, ma io la introdurrei così. I think I've had enough. I might get a little drunk. Però i ragazzi più giovani magari lo hanno conosciuto così, perché ci sono alcuni ragazzi troppo giovani da aver vissuto Paul McCartney. Io quando l'ho saputo, per me è stato un colpo al cuore. C'è la nostra straordinaria amica Chiara Di Giambattista, che stiamo per, eccola qua, la stiamo per raggiungere ad Amsterdam. Chiara, eccoci, sei ad, com'è il tempo ad Amsterdam, com'è il clima? Guarda, sono appena atterrata, sono ancora nell'aeroporto, ma fuori c'è un sole spettacolare. Un cielo super azzurro che proprio ci invita, mi invita, non vedevo proprio l'ora ad essere, insomma, mi dà il benvenuto in questa città fantastica. Ma che cosa ci stai a fare ad Amsterdam, cara Chiara? Sto a fare? L'introduzione non era giustamente a caso, perché insomma quel pezzo è effettivamente anche la dimostrazione che il signor, anzi Sir Paul McCartney, diciamo che ha un occhio lungo, soprattutto non si preclude delle collaborazioni eccellenti e a cui piace molto effettivamente anche guardare tra i, diciamo, nuovi grandissimi talenti che ci sono in giro nella musica, per, insomma, per collaborare, per anche affacciarsi al mondo di dei giovanissimi, di quelli di cui parlavi tu, che non conoscono proprio tutto il suo repertorio. Domani sera qui ad Amsterdam e anche lunedì ci sarà un suo concerto e io sono qua. Sei volata ad Amsterdam per Paul McCartney, grandissima Chiara. E non è la prima volta che faccio dei giri per l'Europa per lui, perché l'ho visto a Liverpool qualche anno fa, l'ho visto a Parigi e di nuovo in Olanda anche questo qualche anno fa. Ovviamente tutte le date italiane, anche quelle, insomma, non ce le siamo fatte mancare, però devo dirti che all'estero ha sempre un fascino particolare, non posso negarlo. Che dire, Chiara, tu sei la nostra super esperta di concerti, appunto, non a caso. Che cosa c'è secondo te di imperdibile nel mese di giugno? Adesso magari senza volare addirittura ad Amsterdam, anche se lo farei volentieri. Ma guarda, innanzitutto ti devo dire, allora, per chi avesse la possibilità, finiamo il discorso McCartney, lui adesso finisce questa tranche europea, si fa un giretto in America, ma poi torna per qualche festival, quindi io vi consiglio di andare sul suo sito e dare un'occhiata alle date, perché secondo me lui è uno di quelli totalmente imperdibili, soprattutto in questo tipo, in questo tour qui dove c'è una scaletta pazzesca. Per quanto riguarda l'Italia, io ti dico che insomma, domani inizia il tour di Vasco Rossi, il Livecom 015 da Bari parte, poi farà Firenze, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Padova, Torino, insomma quasi tutti raddoppiati, perché Vasco dove va è sold out. Poi il 20 giugno in contemporanea iniziano i concerti di Lorenzo Giovanotti e di Tiziano Ferro. Anche Lorenzo fa addirittura 3 date a San Siro. Insomma, non è da tutti una risposta così da parte del pubblico. Tiziano fa anche lui San Siro 2 date e 2 date allo Stadio Olimpico il 26 e il 27 giugno a Roma. Altri che continuano ad aggiungere date su date sono i nostri prodi 3 ragazzi del volo, che hanno tenuto alto il nome d'Italia all'Eurovision, all'Eurosong, per cui insomma siamo felici che insomma, a Roma, per dirti, ne fanno 3, il 22, il 23 e il 24 giugno, ma continuano ad aggiungere date perché la richiesta è talmente alta che insomma non bastano quelle che hanno già deciso, quindi continuano ad aggiungere. Io devo dire che poi probabilmente andrò a sentirli a Cernobbio e mi faccio un po' di self promotion, perché l'intervista domattina dopo il giornale radio delle 8 a 140 caratteri, proprio self promotion, l'incontro che abbiamo fatto questa settimana col volo. Chiara, cosa ma meritano, ma loro sono adorabili. Guarda, ci sono altre date. Ci sono i Kiss all'Arena di Verona l'11 giugno, Sam Smith il 21 giugno a Rock in Roma, poi ci sono i Pet Shop Boys per gli amanti degli anni 80 e meritano assolutamente di essere visti a Roma alla cavea dell'Auditorium, poi c'è Bob Dylan il 29 giugno e sempre il 29 giugno ci sono i Mumford & Sons all'Arena di Verona, concerto pazzesco, i Mumford & Sons sono spettacolari. In attesa poi delle date degli Spandau, perché quando c'è Chiara di Giambattista ci no, sono anche, sai, gli Spandau Ballet. Mi colpisci al cuore. Le vai a vedere tutte anche sempre. Questa volta? Ci proviamo, almeno le tre di luglio sicuramente, le 3 di luglio, poi ad agosto ce ne saranno altre 3, ma insomma gli Spandau, visto che hai aperto il discorso, saranno comunque ospiti ad Assisi nel programma di Massimo Giletti sabato prossimo su Rai 1, quindi insomma per chi volesse vederli intanto in televisione saranno ospiti ad Assisi nella trasmissione Con il Cuore. Tra l'altro, Chiara, noi abbiamo già preso questa settimana via Twitter un appuntamento, perché a settembre invece ci vogliamo fare la maratona Morandi Baglioni. Assolutamente imperdibili, i capitani coraggiosi sono imperdibili. Dimenticate qualsiasi altro concerto e a settembre, in una delle 10 date che faranno a Roma, andate, perché sono straordinari, ovviamente sono totalmente imperdibili e ci hanno dato un'anticipazione ai Win Music Awards l'altra sera e devo dire ho avuto i brividi a sentire Baglioni che cantava, c'era un ragazzo che come me ho avuto un momento di brividi, anche Morandi che cantava Strada Facendo, per quanto inciampato su qualche parola, ma a lui si perdona veramente tutto, qualsiasi cosa. Chiara, qualsiasi ti lasciamo cosa. Prendere, so che devi prendere un treno per arrivare non so dove, ti lasciamo arrivare nella città. Ah, ecco perché sei in aeroporto. Ti facciamo in aeroporto. Ma straordinaria Chiara, hai aspettato per noi, ti ringraziamo davvero, certo. Tanto. Allora, sera se date un'occhiata su Periscope, ecco. Qualcosa forse dal concerto riesco a mandare. E proprio questo volevo live. Chiederti. Allora, il tuo account di Twitter è, allora, aspetta che me lo sono segnato bene, perché poi rischio di darlo sbagliato. Chiara di Giambattista, aspetta, eccolo qua. Ecco Chiara. Vai. Eccola qua, Chiara di Giambattista su Twitter, la trovate anche su Periscope. Spero che tu riesca a darci qualche sapore di questo, sì, di questo concerto. Io devo, guarda, ti confesso una cosa, ho fatto una piccola pazzia, ho comprato il biglietto VIP, ho speso qualcosina per vedermi il soundtrack del nostro caro Sir, però da lì purtroppo non si possono fare video, ma dopo prometto che cercherò di mandare qualcosa su Periscope durante il concerto. Straordinario, io non l'ho dato per bene il tuo account, allora lo ripeto, chiocciola Chiara di Giamba 1. Perché il nome è un po' Perfetto. Troppo lungo, non ci stava tutto. C'entrava, il mio cognome è troppo lungo, non c'entra in nessun account. Troppo esuberante. Chiara, poi ci racconterai tutto, un abbraccio fortissimo. Quando volete. Buon Paul. Un abbraccione a te e ai tuoi ascoltatori. Grazie Chiara, noi ci ritroviamo tra poco perché c'è già Daniele Bellasio di là dal vetro, non lo sto facendo entrare in studio, adesso può entrare, noi diamo la linea al giornale radio delle 17 e poi saremo insieme per un'ora di RadioTube. Il sabato del villaggio.